get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Ciao, sono Caterina. Oggi, insieme a Deborah, abbiamo preparato per voi una sorpresa. Per gran parte della trasmissione ci occuperemo di un evento che per noi è molto importante e che sta proprio per prendere il via. Abbiamo due ospiti d'eccezione, ma non voglio anticiparvi altro e passo subito la parola a Deborah. Ciao a tutte, sono Deborah. Oggi questa trasmissione andrà in onda in forma speciale, perché vogliamo utilizzare il tempo a nostra disposizione per parlarvi di quello che per molte lesbiche italiane è diventato ormai un importante appuntamento annuale. Sto parlando di Immaginaria, il festival del cinema lesbico che ogni anno ha luogo a Bologna. Abbiamo quindi invitato qui con noi le donne dell'associazione culturale lesbica separatista Visibilia, che dal 1993 organizza questo grande evento nazionale. Ve le presento, sono Marina Genovese e Cristina Zanetti, rispettivamente la presidente e la vicepresidente di Visibilia. Allora, ciao a tutte e due e grazie di essere venute. Cominciamo subito con le domande. Innanzitutto vorrei che ci spiegasse com'è nata Immaginaria. Vorrei innanzitutto ringraziare il coordinamento lesbiche romane per questa opportunità che ci dà di parlare della nostra manifestazione. L'idea di Immaginaria è nata tantissimi anni fa, benché poi la prima edizione di fatto si sia svolta nel 1993, e rispondeva un po' al desiderio di tutte noi vedere delle immagini che rappresentassero le lesbiche non stereotipate, cioè non quelle classiche che l'eterocinema ha sempre in qualche modo realizzato. Non eravamo tanto sicure che ne esistessero nel lontano 1991, ma cominciammo a cercarle e facemmo un viaggio in Germania, dove presso una distributrice femminista che si chiama Cinemin trovammo in effetti le prime pellicole di film lesbici che portammo immediatamente in Italia. La nostra ricerca continuò e riuscimmo così a totalizzare una trentina di pellicole che andarono poi a costituire la prima edizione del festival. Grazie Cristina. Dunque, già dalla prima edizione avete avuto il patrocinio del Comune di Bologna. Come mai avete fatto la scelta del dialogo con le istituzioni, visto che questa modalità non era propria del separatismo? In effetti è stata una scelta molto discussa al nostro interno, ma in fondo poi abbiamo capito che rispondeva a un modo diverso di praticare il separatismo. Da un lato c'era la volontà di continuare a creare e a conservare spazi lesbici separati e separatisti, all'interno dei quali diffondere un certo tipo di cultura di matrice femminista, lesbo-femminista, e dall'altro pensammo che era altrettanto importante e necessario essere riconosciute anche dalle istituzioni della nostra città, in quanto cittadine che come gli altri vanno al lavoro, pagano le tasse e quindi aventi diritto come tutti gli altri cittadini ai finanziamenti che l'amministrazione mette a disposizione per le iniziative culturali. Voglio aggiungere qualcosa a quello che ha detto Cristina rispetto alle istituzioni, e cioè che questo lavoro di cominciare relazioni con le istituzioni non è stato facilissimo. Noi eravamo estremamente diffidenti, però siamo state anche fortunate a trovare una donna, secondo noi, stupenda, che allora era assessora alle politiche sociali, Silvia Bartolini, che non solo ha capito l'importanza e il valore di questa manifestazione e comunque dell'importanza della relazione tra donne di movimento e donne delle istituzioni, ma soprattutto ci ha incoraggiato a avere fiducia in noi stesse e a portare avanti Immaginaria, che per noi era qualcosa ancora di astratto. era un sogno, non credevamo di essere capaci di portare a termine una cosa così grande per noi. E questa nostra scelta di relazioni con le istituzioni all'inizio è stata un po' criticata da altri gruppi lesbici separatisti, però poi vedo con piacere che comunque ha aperto la strada negli anni a venire ad altri gruppi lesbici che hanno potuto, sempre con piccoli contributi da parte del comune, realizzare altre grandi iniziative. Quindi tutto sommato il bilancio è abbastanza positivo, anche se purtroppo grazie alla scelta separatista che noi facciamo in tutte le nostre iniziative veniamo sempre un po' penalizzate, soprattutto come fondi che riceviamo, che sono veramente una goccia in un mare. Bene, che modalità adottate per la divulgazione di questa iniziativa? Dunque, noi è da 10 anni che facciamo aggregazione tra donne lesbiche. Abbiamo iniziato facendo semplici feste da ballo per l'autofinanziamento e quindi in un po' di anni abbiamo messo in piedi un discreto indirizzario di donne che vogliono conoscere le nostre iniziative, quindi innanzitutto tante comunicazioni scritte, poi il classico tam tam che sempre vige tra le donne e tra le lesbiche tantissimo, e poi da un paio d'anni abbiamo scelto di fare le itineranti, ovvero vaghiamo da una città a un'altra laddove troviamo dei gruppi lesbici che ci ospitano per far conoscere il festival, e soprattutto questo sistema qui ci ha aiutato moltissimo, siamo state accolte molto bene, con molto entusiasmo, abbiamo avuto anche modo di spiegare meglio come funziona Immaginaria e il lavoro che c'è dietro questo festival. A me ha sempre fatto piacere vedere che durante il festival vengono proiettati anche film provenienti da paesi che francamente neanche io pensavo avessero produzioni di cinema lesbico. Sto pensando per esempio al film venuto l'anno scorso dal Kazakistan. Come avete fatto ad assicurarvelo ed in genere come fate a garantirvi ogni anno un numero così elevato di pellicole? Beh, ci sono diversi modi per accedere a questi film. Quello più classico è di partecipare tramite le nostre delegate e noi personalmente ai festival lesbici e gay che si svolgono in tutto il mondo, tanto per fare qualche nome: Chicago, Londra, Los Angeles, Parigi, dove c'è un altro importantissimo festival del cinema lesbico, un festival separatista, ed infatti con queste ragazze noi abbiamo instaurato una fattiva collaborazione di scambi di informazioni, ed altri festival che stanno nascendo un po' anche in tutta Europa. Questo è il modo classico, in qualche modo il più facile, perché dopo avere visto sessantine e settantine di filmati avviene una selezione da parte della nostra commissione selezionatrice. Un altro modo che è più complicato, poiché di fatto si tratta di cinema indipendente, quindi autoprodotto dalle registe, quindi non c'è dietro nessuna grossa casa di produzione né nessuna grossa distribuzione, e se stesse li realizzano e li distribuiscono, è quello appunto di conoscere queste registe. Questo lunghissimo lavoro è svolto dalla segreteria del festival tramite telefonate, tramite fax e contatti che ci portano via la maggior parte del tempo. Praticamente succede che veniamo a sapere per puro caso da un'amica che abita in un paese sconosciuto del mondo che forse c'è un'amica di un'amica di una regista che ha visto il tal film in quel tal posto, e quindi noi partiamo avendo dati zero per cercare di beccare la fortunata che potrà partecipare al nostro festival. In realtà questa è una fase di lavoro che è delirante, perché queste registe spesso cambiano indirizzo, rispondono molto tardi alle nostre chiamate, insomma diciamo che è la fetta di lavoro che porta via più tempo, però di fatto poi ci paga molto, perché appunto possiamo accedere a queste produzioni che di fatto non verrebbero divulgate da nessuna parte e alle quali noi invece tentiamo di dare valore, oltretutto creando anche proprio un mercato del cinema lesbico. E poi ancora adesso da pochissimo abbiamo un altro potente mezzo che ci dà una mano ed è internet. Qui praticamente attraverso internet riceviamo delle mail di registe che conoscono il nostro festival e quindi ci chiedono di partecipare, ci mandano in previsione le videocassette e quindi ci propongono i loro film. Questa è una cosa che a noi ci sta aiutando veramente tanto. La discussione è così interessante che quasi quasi mi dispiace interrompervi, però ho pensato che a questo punto uno stacco musicale ci starebbe proprio bene, quindi ho scelto questo brano tratto dalla colonna sonora di Baghdad Caffè, perché anche in quel film si parla della relazione amicale fra due donne che praticamente dal nulla riescono a tirare fuori uno spettacolo. Ascoltiamolo insieme. Vi ricordo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione autogestita dal coordinamento Lesbiche Romane all'interno dello spazio separatista femminista di Radio Onda Rossa 87 e 900 MHz. Vi ricordo che potete telefonare al coordinamento Lesbiche Romane ogni mercoledì dalle 20 alle 22 al 6864201 oppure allo stesso numero inviare un fax. Questa trasmissione va in onda in forma speciale perché stiamo parlando di Immaginaria, il festival di cinema lesbico che si terrà a Bologna dal 26 febbraio al 1 marzo. A questo punto ridò la parola a Deborah che proseguirà nell'intervista. Quanto avete detto finora può in parte già spiegare molto, però io vorrei foste ancora più chiare, se vi è possibile. Sto pensando alle critiche, ad esempio, che vi vengono mosse da chi vi accusa di avere costi di partecipazione troppo elevati. Allora, cominciamo a parlare di costi. Quanto costa venire ad Immaginaria? Potete in qualche modo abbassare i prezzi per chi, ad esempio, non ha molti mezzi? Allora, dunque, comincio dicendo che il sogno più grande dell'equipe di Immaginaria sarebbe quello di poter dare la possibilità a tutte le lesbiche di entrare al festival gratuitamente. Questo è il nostro sogno. Nella pratica la questione è ben diversa, in quanto il festival di per sé ha costi elevatissimi per diversi motivi. Intanto, ci sono costi di affitto del cinema, delle sale che mettiamo a disposizione, e le attrezzature anche costano tantissimo, e poi ovviamente il noleggio delle pellicole, viaggi con corrieri e varie. Faccio un esempio, ad esempio quest'anno il festival costerà circa 70 milioni. Questi 70 milioni, come dicevo prima, appunto sono praticamente il noleggio della sala, pellicole, viaggi e quant'altro, non sono le numerose ore che professioniste mettono a disposizione per realizzare il festival, quindi parlo di traduttrici, simultaneiste, di tutto, ci sono diverse professionalità, ecco, quindi 70 milioni sono solamente i costi vivi della manifestazione. Venire a Immaginaria costa, come oramai da anni, perché anche se il dollaro aumenta il prezzo di Immaginaria rimane sempre quello, per chi riuscisse a partecipare a tutta la manifestazione, quindi tutti e quattro i giorni, costa 100.000 lire circa. Questo anche perché noi non possiamo usufruire di forti finanziamenti che normalmente vengono dati ad altri festival, parlo di cinema delle donne o cinema gay e lesbici. Per esempio il festival gay e lesbico di Torino a noi consta che prende circa un centinaio di milioni tra regione e comune, il festival del cinema delle donne di Torino ha dall'amministrazione comunale 80 milioni. Noi per il momento possiamo usufruire di 5 milioni di finanziamento, quindi tutto il resto viene coperto dalle volenterose che vengono al nostro festival perché hanno voglia di vedere immagini lesbiche. Abbiamo previsto uno sconto per le ragazze che hanno meno di 26 anni e questo è il massimo che riusciamo a fare. Infatti per quest'anno, ad esempio, noi abbiamo in previsione un buco di almeno 16 milioni. Quindi quest'anno pensiamo di andare in rosso con le spese e purtroppo non riusciamo a fare diversamente proprio perché essendo il nostro festival separatista, quindi aperto solo alle donne, il comune per questo ci penalizza. A noi questa cosa sinceramente dispiace molto perché sappiamo che il nostro è un festival caro, allora l'alternativa è quella di non farlo per niente. A noi sinceramente dispiace molto. E credo che dispiacerebbe moltissimo anche alle frequentatrici che praticamente da qualche anno a questa parte hanno deciso di mettere da parte un budget appunto per venire al festival, e questa è una scelta che a me sembra molto lesbica e molto carina. Sentite, io purtroppo mi trovo nella situazione di chi deve fare l'avvocato del diavolo, per cui vi faccio un'altra domanda che risponde ad un'altra critica che vi viene mossa. Perché non esportare il festival anche in altre città italiane? La mia risposta si collega un po' a quella precedente. Visti gli alti costi del festival, che noi tentiamo di ridurre al minimo con tanto lavoro volontario, pensare di realizzare Immaginaria prevedendo solo un pubblico bolognese, questa cosa ci penalizzerebbe economicamente tantissimo. Infatti per noi è fondamentale che donne di altre regioni vengano al festival, proprio per coprire queste spese pesantissime, che non diminuirebbero se noi facessimo circolare comunque il festival in altre città, in quanto queste sono le spese base che più o meno tutti i gruppi che decidessero di ospitare il festival dovrebbero affrontare, ovvero comunque va noleggiato un cinema, comunque vanno prese delle attrezzature e comunque vanno pagati i diritti di proiezione, quindi i costi si abbasserebbero di pochissimo, per cui sarebbero tante Immaginarie che non riuscirebbero a coprire i costi del festival. Noi questa cosa l'abbiamo spiegata tante volte a donne che ci hanno chiesto questo e speriamo che veramente riescano a capire che è veramente una questione di costi fondamentalmente. Allora, dopo questi argomenti, come dire, un attimino spinosi, affrontiamo invece quello che è il vero argomento di questa trasmissione, cioè che cos'è Immaginaria e quindi qual è la sua programmazione, i suoi film e i suoi contenuti. Immaginaria è una splendida performance di contenuti oltre che di immagini. I film si dividono in film narrativi, documentari, sperimentali, stiamo cominciando adesso a vedere le prime animazioni molto divertenti. I film narrativi per lo più in effetti parlano di storie lesbiche, di storie di amore, ma anche di gruppi di donne che si sono incontrate per progettare insieme delle cose. I documentari affrontano problematiche quali la salute, il corpo, la sessualità, per esempio la pratica politica dei moltissimi gruppi lesbici esistenti al mondo, e gli sperimentali per definizione affrontano stati d'animo con un linguaggio sperimentale. L'animazione in genere è molto divertente perché talvolta ci troviamo di fronte a brevissimi cortometraggi che hanno la capacità di sintetizzare un mondo di idee e di analisi. Ma Immaginaria non sono solo film, non è solo cinema, ospitiamo in genere sempre 3-4 dibattiti su problematiche che individuiamo di volta in volta e che spesso ci sono suggerite dai film in programmazione. Immaginaria prevede anche una mostra di arti pittoriche o visuali che è allestita all'interno degli spazi del festival, prevede un bellissimo bar per facilitare in qualche modo, per agevolare le frequentatrici del festival durante le giornate, e culmina con una bellissima e gremitissima festa il sabato sera, che l'altro anno nella quinta edizione ha visto la bellezza di qualcosa tipo 750 donne. La domenica viene conclusa con la premiazione e con la proiezione dei film vincitori. Il premio viene dato dal pubblico, in genere si tratta di un momento sempre molto emozionante sia per le organizzatrici sia per il pubblico, perché è un po' il momento che riassume tutti i nostri sforzi ed è il momento nel quale le registe vengono premiate. Quest'anno c'è tra l'altro un'importante novità, il Centro di Documentazione delle Donne di Bologna ha istituito un premio per il miglior film di ricostruzione storica, si tratterà quindi di un documentario che verrà premiato insieme al premio speciale Immaginaria e al premio del pubblico per il miglior film documentario sperimentale e narrativo. A me non resta altro che ringraziare Marina e Cristina e tutte le donne che partecipano al festival e soprattutto tutte quelle che lo organizzano. Ricordo che la sesta edizione del Festival del Cinema Lesbico Immaginaria si terrà appunto a Bologna, al Cinema Nosatella, in via Nosatella 19, dal 26 febbraio al 1 marzo, quindi siamo vicinissime. Niente. Io volevo ringraziare per averci ascoltato finora e vi invito caldamente a venire al festival, vi aspettiamo sinceramente e ricordatevi che Immaginaria per sopravvivere ha bisogno di tutte le lesbiche che in quei 4 giorni vengono a sostenerci economicamente e moralmente. Grazie. Ma un enorme grazie lo diciamo noi a voi, soprattutto perché avete realizzato quello che per molte donne era un sogno, cioè vedere su grande schermo qualcosa che ci rappresenti e finalmente. Inoltre volevo aggiungere che quando si partecipa ad Immaginaria si respira un'aria che è difficile da dimenticare, perché il clima e tutto il contesto è bellissimo. Personalmente ritengo che sia un appuntamento importante da non perdere. Io rientro, per esempio, in quella categoria che non potrebbe permettersi 4 giorni a Bologna, però ho preso l'abitudine di, come dire, fare la formichina durante l'anno, proprio per permettermi di andare a Visibilia, a Immaginaria. Questo per me è un investimento. Consiglio caldamente a tutte di partecipare, credetemi, è bellissimo. A questo punto ringraziamo ancora una volta Marina e Cristina con un arrivederci a presto. A desert road from Vegas to nowhere. Some place better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. Cafe just around the bend. Change is coming. modo di salutare le ragazze che organizzano Immaginaria. Ora proseguiamo con la nostra trasmissione. Gli appuntamenti. Le donne in nero ogni venerdì dalle 17 alle 18:30 e fino al 6 marzo organizzano un sit-in presso l'altare della patria a Piazza Venezia, in silenzio e tutte vestite di nero, a manifestare il rifiuto di ogni integralismo insieme alle donne algerine e alle donne del mondo. In occasione della festa di San Valentino, che per noi sarà Santa Valentina, il CLI, il Collegamento Lesbiche Italiane, organizza una festa danzante nei locali, quelli che sono rimasti ancora agibili, del Centro Femminista Separatista. In via San Francesco di Sales 1A, presso il Buon Pastore di Roma. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold on.